Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci, caro Oscar. Allora, siamo tornati. Siamo ancora pieni di risultati. Siamo pieni di litigi, di numeri, paginata intera. Pagine dei giornali sulle politiche. Vabbè. Il dopo voto. Il dopo. Poi inizierà, tra pochi giorni cominciano il pre. Quindi è senza soluzione. Comunque, vabbè. Insomma, io direi, cari colleghi, stringiamo un pochino, perché altrimenti, insomma, non lo so. Detto questo, oggi vorrei fare una brevissima riflessione, perché i santi del giorno sono anche un itinerario culturale. A volte, scusate, io non voglio sembrare critico, sono la dimostrazione di che come la Chiesa le ha usate. Allora, per esempio, oggi è, tra le altre cose, San Clodolfo di Metz. Chi è questo San Clodolfo di Metz? Era uno che diventa vescovo. Sì. Figlio insieme al fratello di un vescovo, non equivocate, perché il padre diventa vescovo e la madre diventa suora e badessa. Come state capendo, famiglia molto nobiliare, che lavora a fianco con i re dell'epoca e vescovi tutti in famiglia. Adesso, capite che, ecco, io ho qualche dubbio con tutto rispetto su San Clodolfo di Metz. Idem Guglielmo di York, figlio del conte di Winchester, deve aspettare 5 papi, perché anche lui, quando muore il vescovo dove il papà è conte, diventi vescovo anche lui. Allora capite che sì, saranno santi, ma San Medardo, che oggi è il santo, uno dei santi della grande tradizione francese cattolica, anche lui era figlio del maestro di palazzo di Re Clodoveo e così via. Per carità, nobilissimi, santissimi, proprio nobili che santi, più uomini di potere che altro. Oggi, tra giornata terribile per i milanesi, perché nel 1859, con l'ingresso di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III, purtroppo per sempre sparì il buon governo austriaco da questa città, di cui io sono nostalgico. E purtroppo arrivarono i piemontesi e finito il buon governo. I tuoi arrivarono. Ma i miei erano indotti a un errore dal partito francese, sarebbe stato meglio stare a casa propria, e soprattutto ridateci Maria Teresa d'Austria, questa è poi la mia. Lo dico ridendo, virgola, ma fine a un certo punto. Poi nel 1987 nasce oggi il terrore di tutti i papà e le mamme, c'è il telefono azzurro, perché no, evidente, dai, non magari diciamo. Negare un telefonino al figlio diventa papà mi picchia, fa chiamate i carabinieri. Ecco, appunto. No, ma tra l'altro tu dici bene, negare un telefonino al figlio, perché cari ascoltatori, oggi se volete chiamarci sulla politica, i telefoni sono aperti, 800 24. Per carità. A tutti i temi che sono sempre tutti aperti. Temi. Ma vorremmo parlare un po' di scuola. Tra l'altro, le scuole che oggi sono all'ultimo giorno, cioè i miei figli sono andati con la vuvuzela a scuola, credo, sì. Con i tamburi, la vuvuzela. E quindi da domani il problema diventa, cosa gli fai fare? Perché poi... No, vabbè, insomma, non è... sì, quello è uno dei problemi, ovviamente. Ma noi vogliamo parlare di questa cosa e vorremmo parlare del cellulare a scuola, lo smartphone, anzi, no, questi cellulari ormai che hanno l'accesso a internet, hanno tutti i social connessi. Io sono stupito, effettivamente dal 2007 c'era una direttiva che impediva l'utilizzo a scuola degli smartphone. Che credo fosse una grida manzoniana, cioè il cui rispetto insomma, non mi pare che sia proprio in cima alle preoccupazioni né delle famiglie né dei dirigenti scolastici. Esatto. Io suppongo che le famiglie siano molto a favore dei telefoni ai bambini. Magari mi sbaglio. Ma... Lo vogliamo chiedere a voi, cioè vi vogliamo chiedere anche se lo smartphone a scuola sia, come diceva prima Oscar, prima di entrare in onda, progresso oppure regresso. Cos'è? Progresso, regresso? Certo, siamo un mondo sempre più tecnologico, ma forse tutti questi smartphone, a parte non parliamo delle cose illecite, tipo copiare. Ma soprattutto sono comunque distrazione garantita rispetto a sentire abbastanza. Le lezioni, interagire con i compagni, imparare i metodi dei gruppi di lavoro insieme quando si fanno nei laboratori. Credo che siano inevitabilmente un meccanismo per deviare esempio, l'attenzione. Nella scuola del mio figlio c'è la classe, la sezione tablet, cioè studiano sul tablet. ma se vengono beccati a giocare c'è la nota, perché giustamente il bambino appena gli mette un tablet studia matematica sul tablet, appena si gira il professore va sui giochini, è chiaro. Comunque parleremo di questo, però chiamateci su questo tema, ripeto. Care mamme, ditelo fuori dai denti che voi in realtà date ai figli i piccolini il cellulare perché così pensate di controllarlo. Di controllare, cioè, perché di sapere dov'è, spiare, cosa fa, bisogna spiare il cellulare. Esatto. Questa è un'altra questione, controllare o no il cellulare. Molti mi dicono è inutile illudersi, bisogna fare così. Non darglielo significa peggio, darglielo almeno restano tracce, così capisco chi è davvero, chi è davvero, nel senso, cosa fa, eccetera, eccetera. Perché cioè, Oscar è contrarissimo, poi ne parliamo al bar, a questo tipo di controlli. Lui è totalmente contrario, anzi massima libertà. Io non credo nell'efficacia di un super sistema. Ma guarda che a volte serve anche come protezione, perché i rischi sono esterni, non nei nostri figli, no? I rischi non so che sono esterni, e magari i figli non sono in grado ancora di riconoscerli, no? Sì, magari no, però io penso che, insomma, io accetto la scommessa difficile di un'educazione critica, dopodiché ciascuno è esposto. Io devo dire, ricordo con un'avversione tenace, motivo di odio, tutti i divieti assoluti che mia madre, ma non quelli sugli strumenti tecnici, noi avevamo quasi niente, c'erano già i mangianastri, ma quello io lo capivo, a dire la verità, l'ho sempre capito. No, il problema erano i divieti secchi, per me incomprensibili, non far questo, non far quello. Io credo che in una cosa di divieti secchi non spiegati ci credo poco, ecco, questa era la mia esperienza di figlio e di liberale liberista. Però guarda che sulla questione dei telefonini, infatti avremo anche due ospiti un po' estremi, se vuoi, un preside considerato il preside Ghostbuster che va in giro con rilevatore di onde per cogliere tutti i telefonini, anche perché scusa, se c'era una direttiva del 2007 del ministero che il ministero vuol cancellare e che è stata disattesa, vuol dire che se c'era una direttiva in teoria gli smartphone fino a ieri non dovevano entrare nei capito, come funzionano le norme in Italia, grida manzoniane, grande Manzoni ce l'aveva spiegato. Guarda, ma qua già ci chiamano. Io però vorrei farti sentire una cosa, caro Oscar, perché ieri Totti, so che tu ci devi dire qualcosa sulle Olimpiadi. No, Totti poi ieri ha detto non strumentalizzatemi, però qualsiasi cosa si dica in questo momento a Roma, e lui ha detto io sono per le Olimpiadi, sono romane per le Olimpiadi. Secondo me invece è intervenuto, perché senti Sala e Parisi a Milano, sono Sala e Parisi, senti. Sì. Noi siamo avanti, siamo 1-0, quindi vuol dire che uno l'ha imparato e uno l'abbiamo segnato. Sala era davanti alla porta, doveva soltanto tirare il rigore e segnarlo. Il rigore l'abbiamo parato. Secondo me Totti è intervenuto perché ha sentito tutti i candidati parlare di calcio. Tutti che parlano di calcio. Sala forse non aveva chiaro cosa voleva dire, però si impappina nel dire, perché è evidente che la partita di calcio non è esattamente la materia che lui ha in cima alle sue preoccupazioni e comprensioni. Però, insomma, Oscar, fa male Totti a dire io sono per le Olimpiadi? Io rispetto, io ho tuttato ieri. Stai per attento, me, perché possono può anche invocarle Papa Francesco, massimo l'autorità morale che ci sia a Roma, però il punto non cambia, cioè con i debiti che ci sono a Roma Capitale, la mia opinione è che gente seria poi la può pensare come vuole, dalle Olimpiadi alla destra alla sinistra in politica, ai 5 Stelle, ci deve dire prima fino all'ultimo centesimo con precisione e rigore assoluto quanto costano, chi paga? Perché questo mi dispiace per Malagò, il Comitato Olimpico, un'industria di Confindustria che è in prima fila a combattere, quindi il nostro editore che combatte per le Olimpiadi dicendo che ci sono enormi conseguenze positive per l'economia. Noi abbiamo già visto a Roma Italia 90, anzi oggi è proprio l'anniversario dell'inizio dei mondiali a Roma di Italia 90, abbiamo visto i campioni mondiali di nuoto, abbiamo visto le opere cominciate e non finite, abbiamo visto ogni volta sottostimare gli oneri che restano sul gobbo di chi li deve pagare. Quindi secondo me, io capisco Totti, ma dico diteci quanto costa, diteci chi paga, e io capisco quindi Virginia Raggi che dice non è, per me con i buchi del bilancio non è una più che altro priorità. Io penso di capire che proprio Totti sia intervenuto da sportivo, tant'è, dice, che poi dopo ha dovuto non precisare, schieratemi con Giacchetti. Ma è chiaro, anche perché voglio dire, dopo la cosa è diventata, soprattutto in questo momento, talmente delicata, perché a quel punto dice allora sei per le Olimpiadi, allora vota me, non votare quello, non votare di lì, non votare di su, non votare di giù. Sì, ma è chiaro che c'è una parte della città, dove per parte della città intendo non solo il PD e il governo che ha sposato questa causa, intendo poteri che hanno interessi nella realizzazione di questa roba qua, che utilizzano il tema delle Olimpiadi, candidatura Olimpiadi 2024 come una leva politica, ci può la fare. E così non bisogna stupirsi, gli interessi esistono, però a quelli, secondo me, ha ragione chi dice fateci capire i costi, paga. Che poi non vuol dire un no, una no, preclusione, una preclusione. Siccome, Olimpiadi alla mano, nella storia sappiamo che molte volte, quasi sempre, a dire la verità, i costi hanno sforato e poi restano a carico del contribuente. Anche a Torino, le Olimpiadi invernali sono state un'ottima leva, però continuava ad avere un debito e sovraliquote al massimo, e i torinesi e i piemontesi lo sanno che dipende da quello, insomma, no, non era stato loro detto. Io continuo a sostenere che se avessimo qua 100 cittadini di Roma che devono votare al ballottaggio, non metterebbero le Olimpiadi al primo punto. Sono d'accordo con te. Al primo punto, certo che però qui c'è una questione di sfasamento di tempi, Oscar, se uno si vuole presentare alle Olimpiadi deve farlo adesso per 2024, non è che può aspettare. Certamente, ma infatti anni. Per farlo deve fare un buon budget e non come hanno fatto quel comitato olimpico, un budget che è solo i costi di riattamento di alcune delle opere sportive e che ignora completamente i costi urbanistici di infrastrutturazione eccetera eccetera. Troppo comodo, così sono bravi tutti. Allora, però sul tema, credo, della scuola, ci sono ascoltatori. Allora, gli smartphone a scuola è un bene, è un male, questi giovani, questo rapporto tra noi genitori e i nostri giovani, i nostri figli. Paolo ci chiama da Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Dica. Dunque, gli smartphone e in particolare i tablet oggi sono il posto dove viaggia un po' tutto il mondo, il futuro, no? Anzi il presente, certo, ormai. Certo. Bisognerebbe che imparassero già in famiglia i bambini a usarli e, come tutte le cose, a difendersi, a proteggersi dai rischi che possono avere. E a scuola uguale, perché se tu gli insegni sulla lavagna e poi quello va a lavorare e dopo 20 anni che scrive sulla lavagna gli dicono bene, adesso lavora qua. E quello ci perde 2 anni a capire come si lavora. Vabbè, diciamo, adesso non c'è più quel mondo adesso, in cui c'è solo la lavagna col gesso a scuola e tutto fuori. Però io vorrei su questo chiarire, scusate. È già un po' compenetrato. Non equivochiamo. Un conto è che i ragazzi, cioè, mio figlio, lo sanno tutti quelli che mi conoscono, c'ha un anno e mezzo scarso ed è lì che traffica col tablet. Sì, il punto è non è questo. Anch'io ti ho ripreso, cioè, per questo. Esatto. No, sì, perché hai detto, ha visto la sorella e c'avevo il tablet e guardava il tablet, ma anch'io se avessi un anno e mezzo tra una sorella appena nata e un tablet, guarderei un tablet. Detto questo, un conto è ovvio che devono stare nel circuito delle tecnologie del mondo moderno e ci stanno in maniera intuitiva, mentre noi abbiamo dovuto faticare a capirle crescendo. Ma detto questo, qui stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando del cellulare a scuola. A scuola. Nella propria tasca privata, non dell'utilizzo di tecnologie digitali per fare lezione a scuola. Nell'avere in tasca una roba che li distrae esattamente quello. Sì. Cioè, sì, esatto. Non è l'utilizzo del tablet, studiare inglese, studiare matematica col tablet, che è giusto, che è ovviamente con i dovuti limiti anche lì. È proprio chi mentre c'è la lezione, va su WhatsApp capito, a fare esatto, i fatti propri. Infatti propri i ragazzini che si fanno eccetera eccetera, insomma quello che è ovvio che si fa per traffico privato. Esatto. Mina ci chiama da Salerno, buongiorno. Eccoci. Allora, io sono una nonna al momento, ma ho lottato per anni contro coloro che volevano per forza regalare, perché ho 7 nipoti di cui 3 gemelle che ora hanno 15 anni diciamo più o meno dall'età di 9 anni, qualcuno voleva regalare loro un telefono per dargli non so quale possibilità. Quindi ma ha vinto lei che diceva no? E lei io si dicevo opponeva. No. Brava Mina, brava. Ho cercato di convincere le mie nipoti su tutto quello, su quanto sarebbero state controllate dalla famiglia 24 ore su 24 sarebbero ottenuto sul cellulare. Cioè lei dice brava, io ho detto brava, ma lei dice attenzione nipoti, guarda che così è peggio, voi pensate esatto, che sia meglio, ma è astutissimo. L'altro giorno ho raccontato loro. Cioè lei ha difeso, tra virgolette, la virtù, ma ammantandosi del manto della seduzione, dicendo se non l'avete siete più liberi, spezzando l'occhio. Meraviglia. Io ho raccontato loro che a volte dicevo delle bugie, delle palle, e dicevo vado a studiare, e in effetti ho coltivato delle amicizie, persino prendevo un treno da Roma, andavo a Napoli, trovavo un amico, tornavo la sera. E come fai adesso se c'hai il telefonino? E ti beccano col GPS, ti geolocalizzano, è ovvio. E come hai fatto nonna? Ma io non ero controllata 24 ore su 24 come voi, ecco. Questa è una vabbè, ma l'hanno ascoltata le nipoti, perché questa è la frase. Con molta ammirazione, ma e poi comunque comunque loro hanno la, non possono accendere, devono spegnere il cellulare quando entrano a scuola. Questo ma il problema dovrebbe sono essere le famiglie, sono le famiglie il problema, perché tutti stanno a tavola con i cellulari in mano, anche i genitori. Cioè, come si vuole insegnare? Le famiglie sono proprio allo sbando. Lei dice, se già si sta sempre attaccate al telefonino, anche mia figlia sempre mi riprende. Papà, smettila col telefono. E poi mi dice, ma mi compri il telefono? No, hai solo 10 anni. Giustamente. Però tu ti dico, però io devo lavorare. Insomma, le contraddizioni. E anche lei, infatti, lei vuole andare in un'agenzia di modelle. Va bene, è libera di poter fare. Ma è questo poi alla fine. Diventa. Però la mina che usa l'argomento non fatevi controllare, ma certo, non ci abbiate, è una strategia intelligente. È molto molto intelligente. Perché molte delle mamme italiane, infatti, alla fine preferiscono il cellulare ai bambini piccoli, perché dicono così lo controllo meglio. Questo è vero che è così. Sì. Sandro invece ci chiama dalla provincia di Pordenone. Buongiorno. Buongiorno. Ecco. Intanto vi ringrazio di scaldare tutte quante le mie mattine e darmi sempre uno spunto di riflessione, perché fa veramente bene al cervello. Allora, quello che volevo dire è che io sono pro la tecnologia nelle scuole, nel senso che è una naturale evoluzione di quella che è la nostra società. Il problema è che quello che la proposta del nostro ministro sembra che sia sempre il fatto che noi cittadini dobbiamo mettere le pezze a quelle che sono le carenze strutturali e economiche di quello che fanno, nel senso che loro non hanno gli strumenti per mettere dei tablet bloccati su determinati programmi, su determinate applicazioni proprio della scuola, e dicono metteteci voi il cellulare così i ragazzi riescono a studiare meglio. Ma non è così, perché già adesso che ci sono determinati vincoli i nostri ragazzi fanno un po' tutto quello che vogliono, vedasi i video che vengono postati sui social network di professori, di insegnanti, tutto quello che succede nella scuola. Però appunto questo qui è quello che dicevo, che cercano di mettere, di far fare a noi quello che dovrebbe essere il loro lavoro. Quello che dovrebbe fare loro come istituzione. Esatto. Va bene. Esatto. Nel nostro paese, giusto così, alcuni genitori si sono riuniti per rimodernare, rimettere in sesto delle aule di informatica, perché i ragazzi c'erano dei computer veramente obsoleti, che non si potevano usare. Loro si sono messi di tasca proprio con i loro mezzi a risistemare tutto quanto. Questa è la strada che dobbiamo seguire. Va bene, la ringraziamo. Qua un ascoltatore ci dice che al mio primo figlio di 12 anni ho comprato una chitarra elettrica a patto di non comprare il cellulare ma fino perché alle il babbo appartiene alla Big Generation, una mia generazione meravigliosa. Però dice cosa. In classe sono in due a non averlo in classe sua. Questo è un po' il problema. Naturalmente sono tagliati fuori gli sfigati, lo dico con in realtà con affetto, purtroppo lo so che saranno trattati come tali, ma resista, caro papà. La chitarra elettrica è fantastica. Scusa, ma questo scatta chi è cresciuto, caro papà, ha fatto 60, la scelta 70. Io sono convinto giustissimo, però è dura perché il figlio verrà tacciato come quello che non ha il cellulare a scuola, però ha la chitarra elettrica e altri no. La vedo dura, soprattutto vietare a una ragazzina di averlo, perché io vedo che non lo so. Vabbè, questa ce la spieghi tra un attimo, però ne entriamo tra un attimo. Magari Oscar, stiamo parlando nostro di una cosa iperacustica di Pulp Rain, gli arpeggi e gli accordi erano quelli. Magari questo bambino suonerà così, Magari, ma questo il significherebbe essere riusciti nella missione di educarlo bene. Ma l'entusiasmo della mia generazione parla così, insomma. Il papà che invece del cellulare ha regalato la chitarra elettrica al figlio, magari tra 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni suonerà così. Scherziamo. Chi lo sa, ma che straordinarie persone abbiamo lì al di là della palla del vetro. Sì, il nostro Lorenzo Nespoli, il nostro Peter Pescapè in regia. Va bene, caro papà, come hai capito, la pensiamo come te, ma credo che siamo in minoranza. Parliamo allora di smartphone a scuola. Tra l'altro, caro Oscar, qui abbiamo un preside definito da alcuni giornali il preside Ghostbuster, Stefan Kaim. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Preside in una scuola media Brunico. Sì, giusto. Allora, l'hanno definito preside Ghostbuster perché mi dicono che lei va, sia andato in giro in passato anche con i rilevatori di onde per scovare gli smart. Lei è vero. È vero? Sì, è vero, è vero. Se l'hai comprato lei questo rilevatore di onde? Sì, quello l'ho comprato io per uso personale, innanzitutto, e poi l'ho usato anche per rilevare, per vedere un po', per controllare se tutti hanno fatto così come volevamo. Perché lei dice, io ho applicato semplicemente una legge, visto che nelle scuole c'è questo divieto, ma nessuno fa rispettare questa direttiva. Come mai nessuno la fa rispettare, esatto, secondo lei? Ma non direi che proprio nessuno la fa rispettare. Cioè, ho visto che c'è una gran differenza tra gli istituti superiori e anche tra le medie, ovviamente anche tra le elementari. Nelle scuole primarie, secondarie di primo grado, questo divieto va rispettato di più, direi, che in confronto con gli istituti superiori. Però ovviamente ci sono anche delle certe difficoltà. Non posso controllare tutti gli insegnanti, se tutti proprio praticamente cercano di fare anche le conseguenze. Qualche insegnante magari lo vede e non dice niente. Fa finta di nulla. Anche certi colleghi, ovviamente è anche un problema organizzativo, perché praticamente devo pensare cosa faccio esattamente. Secondo me serve un concetto chiaro. È troppo poco soltanto dire, se trovate un cellulare, cari insegnanti, lo ritirate e magari lo consegnate in segreteria per poi farlo riprendere dai genitori. Lei invece cosa fa? Cioè, mi faccia capire, entrano i ragazzi e allora già sapranno che devono consegnare. Non devo... Sì, giusto. Se uno ha lo smartphone, lei cosa fa? No, praticamente noi abbiamo fatto così. Noi abbiamo elaborato un concetto anche in collaborazione con i genitori, che erano molto d'accordo. E praticamente gli alunni entrano nella scuola e là c'è subito un armadio già nell'area di entrata e lasciano lo smartphone e là lo devono lasciare. Noi chiudiamo a chiave poi l'armadio quando l'hanno consegnato tutti, e poi ovviamente faccio qualche giro di controllo con il rilevatore di onde. Sì, con il rilevatore soltanto. No, anche per controllare, però ancora di più per far vedere anche che agli studenti, che le onde si possono misurare, che è un problema, non è una cosa che soltanto perché non si vede non esista. Praticamente anche per un obiettivo didattico, sì, per far vedere per far che è il problema. Certo. Ma ne ha beccati col rilevatore di onde? Sì, uno. Che è successo a questo povero studente? No, noi praticamente abbiamo fissato con questo concetto, abbiamo fissato anche che agli alunni, agli studenti che non danno attenzione a questo divieto, gli diamo una nota nel registro di classe. Ah, vabbè, una nota. Cioè, praticamente una misura disciplinare. Sì, vabbè, dai, una cosa. Però, preside, noi vogliamo presentare un altro ospite, si chiama Nunzio Tacchetto, è un sindaco di Vigonza. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Perché il sindaco Tacchetto, caro Oscar Giannino, sai cosa ha voluto fare? Ha fatto una proposta, ha fatto un'iniziativa a dire a chiunque voglia consegnarci per una settimana il proprio smartphone dei ragazzi, avrà un premio, una gita a Gardaland, credo, come premio. Chi resiste vince. È andata bene, sindaco? È andata benissimo, oltre le aspettative. Perché? E col senno di poi, anche se fosse stata un'altra proposta a parte la gita, sarebbe andata bene lo stesso, perché ai ragazzi è piaciuta la sfida, è piaciuto mettersi in discussione, e dopo alla fine hanno scoperto che restare senza, qualcuno ha detto, sono sopravvissuto, sono ancora vivo anche meglio. Ragazzi, perché voi forse non vi rendete conto, ma togliere ai ragazzi i gruppi di WhatsApp, i gruppi di Facebook, la possibilità, cioè per molti di loro vuol dire togliergli proprio gran parte della propria legittimazione nel gruppo, no? Sì, e poi è proprio così, a come descrivono tutti coloro che hanno figli negli età più alta, diventa anche strumenti magari per superare timidezze, cose eccetera, cioè nell'interazione è una modalità completamente diversa da quella a cui siamo stati abituati io e te crescendo. Mica devi guardare negli occhi una ragazza per dirle. Per te che venivi dai Salesiani era un bel problemino, per me doppia. Però detto beh, basta aiutarli un po' e riscoprono subito e non è che ci voglia tanto. Certo. Dice, l'importante sì, è dare la proposta e dopo insomma vedere che è seria, vedere che c'è anche un risultato finale e tutto funziona. Tutto funziona. Una delle obiezioni che viene fatta alle tesi sostenute dal sindaco, ma anche da Stefan Kain che abbiamo sentito prima, è quello che in realtà l'utilizzo, la diffusione, il libero utilizzo tra i ragazzi e gli adolescenti dei telefonini è una maniera per autodifendersi dal bullismo, dalle violenze, dalle tentativi impropri a sfine anche sessuale, eccetera, eccetera. Posso chiedere sia al sindaco che poi a Stefan Kain a questo argomento come rispondano? Che non è vero, i cellulari, gli smartphone servono, ma serve molto di più essere relazionati con le altre persone in maniera vera, non virtuale, certo. Quindi assolutamente fuorviante. Io ho visto ragazzi, ma insomma la scoperta dell'acqua calda, ho visto ragazzi molto più felici. Certo che per il fatto stesso che sono ragazzi delle medie nel mio caso, l'insicurezza, il fatto di essere timidi, il fatto di aver paura del branco, il fatto di avere paura oppure di essere bulli addirittura, non aiuta, ma certo che noi... Lei facciamo... dice è meglio costruire una relazione vera, abituare a una relazione vera sì, e sì. A dire se ci sono i rischi a dirlo di persona a qualcuno. Che dice invece Stefan Kain da questo punto di vista? Possono avere un ruolo e ha qualche ragione chi sostiene con preoccupazione che se gli leviamo questa maniera di comunicazione, come devo dire, più diretta, meno mediata dal problema... personale per un ragazzo, per un adolescente di avere paura e vergognarsi a dichiarare dei rischi. Lei che dice, Kain? Noi abbiamo fatto proprio un'esperienza diciamo contraria, perché i genitori dei studenti ci hanno fatto capire che ai studenti andava anche bene che non si potevano portare dietro il cellulare in scuola, proprio per questo motivo, perché avendolo con sé erano anche costretti a rispondere subito, come aveva detto lei, diciamo a tutti gli sms, a tutti i messaggi che gli arrivano tramite WhatsApp e così via, e non potendosi portare dietro i cellulari avevano, diciamo tra virgolette, una scusa per dire guarda io non sono raggiungibile, non posso risponderti, perché almeno così me l'hanno detto i genitori, se non rispondono subito spesso vanno già esclusi praticamente, una specie di pressione sociale, e agli alunni stessi andava bene di non essere sottoposti a questa pressione almeno per questo periodo durante il quale erano a scuola. Abbiamo avuto questa esperienza praticamente proprio per anche un motivo che andava bene agli alunni, e poi le devo dire che diciamo adesso vedendo una gran parte di tutti i casi problematici che ho tra gli studenti sono causati proprio dal bullismo e dal mobbing, e causati in primo piano dai media sociali come WhatsApp e Facebook e così via. Anche se qui insomma non dobbiamo e non vogliamo apparire antitecnologici, questo è il mondo con cui bisogna convivere e bisogna gestirlo meglio. Però guardate, ci chiama proprio uno studente, mi dicono, Adalberto, giusto, da Ravenna, buongiorno. Buongiorno. Io sono uno studente a Ravenna, faccio il liceo scientifico, appena finito la quarta, e diciamo, faccio parte della generazione di transizione, diciamo che i telefonini quando ero piccolo non erano ancora così una grande, erano così estesi come sono adesso. Tuttavia noi, posso confermare la teoria delle grida manzoniane, infatti alcuni professori ci stanno attenti, altri di meno. Tuttavia alcuni professori usano tutte queste piattaforme, oltre allo smartphone, quindi anche social e affini, per andare a compensare le mancanze che spesso e volentieri noi abbiamo dal sistema scolastico. Quindi a volte... quello che ci diceva anche prima l'ascoltatore. Cioè, abbiamo dei feedback sui voti, abbiamo voti molto più in fretta, o per esempio se abbiamo bisogno di un chiarimento su un argomento, oppure di spostare una verifica in caso ci sia stato un problema organizzativo, possiamo farlo. Questo è un utilizzo strepitoso, è ottimo. Insomma, ovviamente io sono di parte perché sono di questa generazione nuova, ma se posso dare un parere dato dalla mia giovane ignoranza, più che fare dei limiti, per quanto io apprezzo, mi piace molto l'iniziativa del sindaco, secondo me non va bene incentivare i ragazzi a non usare il telefono. Io mi concentrerei gli sforzi a un'educazione a educare le nuove generazioni a usarlo in maniera bene. Cioè non vietare, ma però, usarlo bene. Però ecco, qui bisogna che ci chiariamo. Io sono completamente d'accordo, ma qui noi non stiamo discutendo del diseducare o del disincentivare all'utilizzo e al buon utilizzo, come giustamente dice il nostro giovane ascoltatore. Noi stiamo parlando del fatto che durante l'orario di scuola è meglio non averlo, perché durante l'orario di scuola le attività da fare devono sono essere altro. digitali, ma sono il primo a dirlo, ma devono essere digitali attraverso i supporti digitali eccetera eccetera della scuola, altrimenti col telefonino si fa altro. Ecco, questo è quello che di questo però effettivamente un po' di disincentivazione dal sindaco c'è stata, no? Nel volere. Sindaco, lei che risponde all'ascoltatore, al giovane ascoltatore studente che dice meglio educare piuttosto che dire una settimana senza. Beh, ma ha ragione, non potremmo fare altrimenti, non potremmo fare senza questi strumenti che sono eccezionali. Il problema è riferito soprattutto ai ragazzi giovani, i miei dai 12 ai 14 anni, il problema è far capire e anche far capire ai genitori che c'è anche dell'altro da fare, dell'altro con cui relazionarsi, solo questo. Solo quindi questo, è un uso, è un modo per educarli moderato. Anche così, un uso moderato. Professor Caim, è vero che una volta l'hanno chiamata anche da una scuola siciliana per dire mi aiuti a capire il rilevatore di onde, dove lo possiamo comprare? Che anche sì, ma hanno scritto un'email, c'è una collega dirigente. No, è comunque saltata anche a rispondere, se posso rispondere. Sì, certo. Secondo me si tratta proprio di quello, di avere un concetto didattico chiaro e anche di valore didattico. Praticamente questo è il problema, innanzitutto, perché a dire la verità io lavoro tantissimo anche con il computer, con il cellulare. Per esempio, ho costruito il sito web della nostra scuola e praticamente me ne intendo anche di queste cose e vedo anche il valore dei dispositivi digitali multimediali, però il problema è di definire un concetto di valore didattico molto molto chiaro, perché ho parlato già con tanti insegnanti, anche con diversi colleghi, e dire soltanto ok, vediamo di educare gli alunni ad un uso positivo dei dispositivi è troppo poco, perché troppo poco. Soltanto dire ok, facciamoli installare qualche app, facciamoli provare, facciamoli vedere, è troppo poco per un concetto molto chiaro didattico. Per dire, io ho una professoressa nella mia scuola che era l'unica finora che mi ha fatto che mi ha presentato un concetto molto molto chiaro, ed era proprio quello di lavorare con i mind map digitali, lavorare con i pannelli digitali, però non, questo secondo me è proprio il problema. Se il dispositivo digitale è praticamente, si trova un concetto molto chiaro e che si può usare bene anche per motivi didattici, allora sono il primo che dice altrimenti no, però si fermi presidi, altrimenti sforiamo. E intanto vi ringraziamo e concludiamo con la nostra chitarra elettrica. Esatto, io lo dedico questo solo alle 19 Yazide arse vive, che io vorrei sante, perché chi le arse ha calpestato la libertà di noi tutti e non solo la loro dignità.